si sa, è il complice più adatto e più cortese che puoi trovare per far cadere un cuore nella rete. Ma poi chissà se quella rete due ne pescherà, ed è questa la doppia partita che tiene la vita nel gioco d'amore. Sento dire che là fra i cowboy, se c'è lui, c'è anche lei. Attraversano i fiumi e le valli, sempre in sella i focosi cavalli. I piaie, i piaie, i piaio, poi finiscono parlando d'amore. L'amore si sa, è il complice più adatto e più sincero che sa parlare a tutti i cuori dell'universo intero, al tedesco ed al francese, all'indiano, al pakistano, al cinese, al giapponese, allo slavo, all'italiano, al malese, all'olandese, all'inglese, all'egiziano, al lappone, all'esquimese ed ai russi America. E perciò tutto il mondo è paese e troverà la felicità.